pagar. Una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Questa mattina stare a Roma significa stare sul ponte del Titanic in attesa che affondi. Questa è perlomeno l'impressione di questa città. E come si fa sul ponte della nave che sta per affondare? Naturalmente si cerca di dare una visione poetica ai propri estremi istanti. Essere poeti è una sorta di presunzione immane. Mai nessun poeta si proclama tale, mai nessuno immagina di cogliere momenti poetici nella propria giornata se non nell'impressione che le sue parole, i suoi pensieri, le sue impressioni lasciano negli altri. Poi non c'è cosa più noiosa che invece sentire i poeti, intervistare i poeti, interrogare i poeti. Nulla è meno poetico del poeta stesso. Però l'esercizio che vorrei suggerirvi questa mattina, proprio perché è una giornata piovosa, triste e tediosa, è quella di cercare sensi nascosti nei momenti più banali della nostra giornata, che forse è l'inizio di un'operazione che molto rozzamente si avvicina a una ricerca poetica nella propria esistenza. Vi faccio un piccolissimo esempio che mi è venuto in mente proprio poco fa, tratto da un episodio comunissimo, banalissimo. Ieri sono stato al ristorante con un amico mio, nella pausa di colazione sono andati a mangiare in un posto qui accanto a Piazza San Silvestro. Nel tavolo accanto a noi c'era una coppia, era una ragazza e un ragazzo, stavano seduti lì accanto a noi, mangiavano tranquilli. A un certo punto lei si è alzata, penso per andare in bagno. Nulla di poetico in questo, ma era poetico il suo sedere. Aveva un sedere da dea dell'Olimpo e tutto il tragitto che ha fatto attraverso i nostri tavoli è come se si fosse aperto uno spiraglio di sole in quella giornata. Eravamo tutti zuppi di pioggia, tristissimi. Poi si parla sempre di lavoro a quest'ora. Quell'imbecille del fidanzato, mentre lei passava e ci deliziava, approfitta del momento, come un topo da fogna, gli apre la borsetta, comincia a fugare dentro, prende il cellulare e si mette a scavare dentro il cellulare alla ricerca, non so, di qualche traccia del passato di quella donna. Io ho pensato esattamente questa cosa, ancora non sapevo che avrei fatto questa trasmissione, ma l'ho trovata un'ispirazione veramente profonda. Quello che quella ragazza aveva dietro le spalle per noi ha rappresentato la benedizione di un istante. Per il suo uomo, che poteva averla poi concretamente, quello che lei aveva dietro le spalle rappresenterà la maledizione di tutta una vita. Un tale desiderio d'amore si è insinuato nel mio cuore. Che fitta caligine ha steso sui miei occhi e mi ha strappato dal petto un animo innocente. Questo invece è un vero poeta, è un poeta dell'antichità, Archiloco, che questo suo pensiero, probabilmente ispirato non certo dal sedere di un'avventrice di una trattoria romana con il fidanzato geloso che frugava nel suo cellulare, è stato espresso in un periodo che va dal 680 al 645 avanti Cristo. Questa mattina questo mio suggerimento di cercare di guardare la realtà con un senso diverso e profondo nasce da l'ispirazione che mi ha dato un libro, I miei lirici greci, 365 giorni di poesie, che è stato scritto da un genetista italiano, da uno scienziato, Edoardo Boncinelli. Boncinelli, buongiorno. Buongiorno. Indegnamente ho introdotto il suo libro, che è un'opera faticosa e non spiegabile razionalmente alla luce del pensiero corrente. Un genetista che dedica ogni giorno dell'anno a una espressione, un frammento. Dei lirici greci abbiamo pochissimo, sono le basi di tutta la nostra ispirazione poetica, della nostra composizione, letteratura poetica, e abbiamo dei frammenti, ma frammenti sufficienti per darci un senso di continuità e di attenzione verso i sensi profondi della vita. Ecco, quanti anni sono che lei sta lavorando a questo libro? fatto delle biciclette al tempo del liceo, ovviamente, poi dopo ho avuto altre cose da fare. Poi a un certo momento, verso i 50 anni, ho detto, ma perché non posso tradurli a modo mio, visto che sono così belli? Ci ho messo 5 anni a farlo, dall'88 al 93, poi li ho tenuti nel computer finché ho trovato un editore e ho deciso di pubblicarli, perché sono talmente belli che anche se io li ho tradotti un po' a modo mio, lo stesso risplendono di luce propria. Ecco, il libro edito per l'editrice San Raffaele è un libro voluminoso, ma mi interessa l'approccio, perché qualsiasi professore, qualsiasi grecista, qualsiasi esperto in letteratura classica avrebbe fatto un lavoro di mera filologia. Lei ha restituito ai lirici greci quello che profondamente è il senso per cui sono esistiti, sono prodotti e dobbiamo essere loro grati. Lei ne ha fatti suoi, in fondo. Lei spiega nel suo libro che non ha la pretesa di una traduzione che riproduca addirittura la metrica del tempo. Ha cercato il più possibile di trasferire al mondo quello che per lei ha significato leggerli, ma soprattutto ne ha creato una sorta di libro degli oracoli, perché è possibile che ogni giorno noi, sfogliando, guardiamo l'ispirazione della giornata e vediamo quale lirico, quale frammento di lirico greco ha attribuito Boncinelli a quel giorno. Mi viene da pensare la giornata che passa tra la notte che ci ha preceduto e la giornata di oggi, Boncinelli. Io non so per quale ragione le ha attribuito al 15 dicembre un pezzo terrificante di Stesicro, che è il sogno di Clitennestra, che sogna un serpente che gronda di sangue, vede Oreste in questa visione terrificante. Invece oggi, questa mattina, è una giornata allegra, c'è probabilmente l'accenno di una festa che ricorda il furto di una forma di cacio che Hermes compì, forse rubandola a un altare di Artemide. E i giovani a Sparta, lei immagina, suppone che facessero una sorta di rituale questa mattina e si inseguivano e rubavano anche loro questa forma di cacio. C'è un bel contrasto fra solamente nel passaggio di una notte. E beh, la poesia ha questo di bello, che suona tanti tasti, addirittura tante tastiere, tante tavolozze. Il vero poeta passa su tutto lasciando un'impronta sua personale, perché assimila tutto. Io ho voluto così suddividere le poesie, rese il più possibile attuali, perché il lettore di oggi, siccome per caso ho trovato che erano 365, ho pensato di seguirla una per giorno dell'anno, poi naturalmente se uno vuole se le legge tutte insieme, ma può essere un giochettino, ecco, quello di vedere giorno per giorno quale poesia è capitata, visto che si tratta di varie ispirazioni e anche di vari autori. Io ho una preferenza netta, nettissima per Saffo, come si capisce leggendo il libro, ma parlo di Archiloco, di Alceo, di Solone, di Callino, quindi ci sono tutti gli autori della lirica greca classica. Mi viene a pensare che Saffo, che è probabilmente la poetessa che più rimane all'immaginario comune, anche chi necessariamente non abbia letto, studiato i lirici greci, sa esattamente chi ella sia. Di Saffo ci rimane, mi sembra, una sola lirica completa, soltanto tanti frammenti. Tanti frammenti sono stati sufficienti per renderla eterna a chiunque. A volte ho tradotto anche frammenti di due parole, certo di una parola sola no, perché sono talmente belli, talmente, è una lingua talmente particolare, talmente incisiva, talmente densa di significato, che secondo me nessun poeta può competere con l'altezza lirica e con la pregnanza semantica di Saffo. Ecco, io propongo questa mattina ai nostri ascoltatori una sorta di gioco immersivo, o una sorta di uscita dal mondo, visto che l'uscita dal mondo è la metafora che trovo più felice per vincere il tedio quotidiano. Chiamate all'800 24 00 24, ditemi una data per voi importante, la data della vostra nascita, la vostra prima comunione, il vostro primo incontro d'amore, il giorno che ricordate più felicemente o più infastamente. Noi vi leggiamo la lirica corrispondente a quel giorno. Ho sotto mano il libro di Boncinelli, ho 365 liriche a disposizione, e chiunque vorrà potrà chiamare, potrà dire: io sono nato questo giorno, ditemi questo giorno a cosa ha attribuito Boncinelli rispetto alla ispirazione profonda, frammentaria, ma allo stesso tempo capace di ricostruire dei momenti nella vita di ognuno di noi, dei lirici greci. Eros mi ha sconvolto i sensi, come il vento che al monte sulle querce si abbatte. Verginità, verginità, dove te ne sei andata da che mi hai lasciato? Mai più tornerò da te, mai più. Questa era Saffo, Boncinelli. Sì, questa era Saffo, che a vari momenti, siccome lei si occupava dell'educazione delle fanciulle, spesso capitavano poesie per le nozze delle fanciulle che lasciavano l'accademia dove lei le preparava e andavano a sposarsi. E quindi molti canti sono canti di nozze, ma chiaramente invece il filo conduttore profondo della poesia di Saffo è l'amore, l'amore in tutte le sue salse, l'amore in tutte le sue sfumature, perché famosa è rimasta tra le sue liriche quella in cui lei sente tutti i morsi della gelosia vedendo una ragazza amata che guarda un altro, e ha descritto con termini modernissimi tutti gli spasmi della gelosia, il cambiamento di colore, la vista che si annebbia, gli orecchi che rimbombano e il senso di venire meno. Quindi Saffo suona veramente tutte le note possibili del nostro cuore. Per far capire quanto sia veramente universalmente ormai intrisa anche la contemporaneità di questo pensiero, in questo momento su Facebook, il meno poetico dei luoghi possibili, secondo un'accezione secondo me molto anche limitata, mi sta scrivendo Monica e mi dice esattamente questo frammento: quando ti vedo mi rotano gli occhi, un brivido mi scorre sulla pelle tutta e sento mancare me stessa. Eva Cantarella, buongiorno. Buongiorno. Professoressa, notissima studiosa del mondo classico, questa mattina le saremmo molto grati se anche lei ci accompagnasse in questo difficile ma però piacevole momento. Noi assieme a Edoardo Boncinelli, che ha composto, che ha tradotto e composto una sorta di breviario dei lirici greci, un lirico greco al giorno, stiamo cercando di scoprire quanto ancora sia attuale questa cultura classica, che non per tutti corrisponde a studi regolari, per molto è semplicemente una contaminazione che avviene comunque attraverso la meno poetica probabilmente delle maniere di trasmettere il pensiero e quella dei mezzi di comunicazione di massa. Però su Saffo vorremmo sapere qualcosa di più da lei. Ha detto Boncinelli in maniera molto pudica che aveva una scuola di fanciulle, ma oggi la vulgata rispetto a Saffo è che sia stata in realtà un'anticipazione di costumi che non tengano conto di regole nell'attribuzione e nella caduta dell'amore. Saffo viene, il tiaso di Saffo veniva presentato quando io andavo a scuola, ma ancora è così spesso nei manuali scolastici, come una specie di collegio per fanciulle che imparavano, si preparavano al matrimonio. In realtà era una cosa completamente diversa, che però non era al di fuori delle regole, non è che consentisse amori completamente al di fuori delle regole del tempo, perché non dobbiamo dimenticare che Saffo vive proprio nel periodo di passaggio tra la società prepolitica e la polis, quando le regole sessuali erano ancora, la polis non aveva ancora fissato delle regole, le rigidissime regole sessuali che fisserà poi, per cui le donne hanno rapporti solamente, la regola per i rapporti sessuali delle donne è l'eterosessualità, mentre la regola per i rapporti sessuali degli uomini è la, è sbagliato chiamarla bisessualità, ma consente agli uomini di avere nel corso della vita rapporti sia con gli uomini che con le donne. Lei ha scritto un libro, professoressa, Secondo natura, la bisessualità nel mondo antico, in cui sì, analizza questo problema. Non è proprio giustissima la parola bisessualità, ma non ne ho trovate di meglio, perché il bisessuale per noi oggi è uno che amo ugualmente donne e uomini indifferentemente. Lì c'erano delle regole precisissime. Il ragazzo greco poteva essere amato quando era giovane, più o meno diciamo dai 12-13 anni, allora non era così, era un'età più adulta di quello che sembra oggi, no? Quello che oggi, fino ai 17 poteva essere il giovane amato di un cittadino, amato nel senso che era educato proprio a diventare cittadino, era la sua paideia, ma anche amato fisicamente, quindi poteva essere il partner passivo di un rapporto sessuale che era appunto pedagogico, però questa era la cosa importante, il ragazzo doveva farsi essere corteggiato, queste liriche sono bellissime anche perché sono molte volte parlano di corteggiamenti, di amori, respiri. Le leggevamo a scuola, almeno io non capivo perché nessuno mi diceva queste cose. Non ce le spiegavano queste cose, no, io ho fatto il liceo dei Salesiani, immaginate se potevano dire quello che poi accadeva. Sto parlando un po' troppo degli uomini, voglio tornare alle donne. Comunque poi diventato adulto, il ragazzo dopo i 18 anni, quando gli spuntavano i famosi trichi e i peli, non era più bello, e non, nessuno lo corteggiava più, non gli scrivevano più calosse sui vasi, non gli dedicavano più le poesie, e allora il ragazzo, quello finiva il momento della sua, doveva essere anche difficile tra l'altro per i ragazzi greci questa regola, e beh, doveva cambiare, doveva diventare da oggetto del desiderio il soggetto desiderante, e poteva desiderare le donne, anzi doveva sposarsi, e dove poteva però anche avere un giovane pais amato, quindi diventava l'amante nel rapporto in cui prima, quando era giovane, era stato l'amato. Le donne, ecco, viceversa, con la polis vengono chiuse, non fisicamente, non c'è la segregazione fisica, nell'oikos comunque non possono avere altri rapporti sessuali che con, non solo con un uomo, ma con il marito. Era punita persino la vedova che aveva rapporti sessuali al di fuori, cioè, con rapporti sessuali al di fuori del matrimonio, ovviamente essendo vedova e non essendo risposata. Però ecco, Sasso vive nel momento, testimonia del momento in cui le donne, prima di essere chiuse in questo cerchio appunto di attribuzioni e di ruoli, passavano un periodo prima del matrimonio in comunità, in una comunità che era anche una comunità religiosa, nella quale imparavano ad amare, era un apprendistato all'amore, ma era un apprendistato all'amore che avveniva attraverso il rapporto con la maestra. Sasso era una maestra, si chiama proprio, dice di essere maestra, ma poteva avvenire anche, poteva aver luogo anche fra le ragazze. C'è un famoso Partenio di Alcmane che, secondo una parte della dottrina, io credo sia così, racconta proprio il momento del matrimonio, naturalmente non è un matrimonio legalmente valido, ma l'unione fra le due ragazze che all'interno del Tiesos ci giurano fedeltà e diventeranno una coppia. Tutto questo poi scompare. Ecco, ci fermiamo un secondo solo, professoressa Cantarella, perché ha chiamato Maurizio, che è il primo ascoltatore, che chiederebbe al professor Boncinelli di attribuire alla giornata che lui ha scelto una lirica. Buongiorno Maurizio. Sì, buongiorno. Sì, senta, allora io volevo sentire... Sì, spenga la radio, però sennò è molto poco lirico sentire questo rimbombo. Sul giorno 17 di febbraio. Che giorno è per lei? È un giorno, sono nato, insomma, 17. Dunque io posso soltanto dirle che il 17 febbraio, secondo il professor Boncinelli, è un giorno in cui c'è aria di burrasca, vero professor Boncinelli? Sì, Archiloco dice a un ipotetico interlocutore che il tempo si sta guastando, ma in realtà si riferisce a un imminente attacco da parte dei nemici soliti che minacciano la sua città, quindi un momento di calma in attesa della tempesta. Dice: corrono assai veloci sul mare le navi, gran parte delle vele scorriamo e allentiamo le scotte, cerca di togliere propizio il vento e salvano i compagni perché il ricordo di te viva in noi. A lei cosa dice questo, Maurizio? Ha segnato la sua vita questo attacco imminente di nemici? Sì, quasi sempre. E poi tra l'altro tutta questa turbolenza mi è proprio congeniale, cioè nel senso che la mia vita è comunque un ripararsi e un attaccare continuo, quindi non, purtroppo l'uomo è un animale un po' ingeneroso quando ci si mette. Tra l'altro, tra parentesi, scrivo anch'io, mi diletto anch'io a scrivere, non sono un letterato, non un grande scrittore, ma comunque... Bene, non ci contamini con i suoi peccati, ma si accontenti di sapere che anche secondo il professor Boncinelli e secondo Archiloco la sua vita sarà sconvolta o è stata sconvolta da onde profonde. Melog 2.0. Dell'uomo poca cosa è la forza degli affanni. Nella sua breve stagione pena si avvicina appena, poi senza scampo a tutti toccherà la morte. In parti uguali, al giusto e al malvagio. Questo era Simonide sulla vanità delle cose, tradotto da Edoardo Boncinelli, I miei lirici greci, 365 giorni di poesie, editrice San Raffaele. Professor Boncinelli, questa massima di Simonide potremmo scrivercela su una maglietta e portarcela addosso ogni volta che ci sentiamo affannati dall'erosione del quotidiano che sembra sopraffarci? Ma molti dei frammenti che ci sono stati tramandati in realtà sono citazioni. Non dico che erano scritte sulle magliette degli antichi greci, ma erano riportati in un testo, quindi hanno spesso il valore di una massima. E questo ce le rende particolarmente care perché possiamo interpretarle proprio come massime. Eva Cantarella, stiamo compiendo un'operazione di vile profanazione del senso liriche greche, avendo iniziato questo gioco col nostro pubblico. Stanno chiamando decine di persone con la data in mano, quasi che volessero leggere l'oracolo della liria greca che corrisponde al loro giorno. No, assolutamente no, è un gioco splendido, e che tra l'altro dimostra una cosa, dimostra come, ecco, il classico, che in questo momento è, non vorrei parlare di crisi del classico, perché per me il classico non è in crisi, ma è in crisi dal punto di vista dell'apprendimento e dal punto di vista dei programmi scolastici. Ecco, invece continua a interessare moltissimo, soprattutto i giovani. Io immagino, non lo so, che molti di quelli che chiamano siano giovani, non tutti senz'altro, ma insomma, comunque il pubblico è estremamente interessato ai classici, basta presentarli nel modo giusto, in un modo intelligente, questo mi pare lo sia. Maria, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei si prepari, lei che giorno vuole, Maria? Il 1 agosto. Com'è il suo temperamento? Il mio temperamento, io direi che dimostra una vivacità e una forza, ma che in fondo nasconde anche tanta debolezza. Oggi Boncinelli le attribuisce Ibico, ardendo come per tutta la notte gli astri lucenti. Ce la spiega, professore? È un piccolo frammento, un cameo, come spesso capita, dei lirici, che rende, diciamo, la sospensione della notte d'estate. Si tratta d'amore, certamente, si paragona la passione d'amore alla forza degli astri che nel cielo purissimo d'agosto brillano per noi, brillano per gli innamorati, brillano per tutti quelli che li sanno guardare. Maria, cosa ha provato a sentire il giorno illuminato da questa lirica? Ecco, io penso appunto che questa forza che io in fondo sento dentro, al di là della sofferenza, al di là di tutte le difficoltà della vita, sia una costante, ecco, sia una costante, ed è quella che non fa mai morire la mia speranza. Va bene, Maria, io intanto, per rendere giustizia anche alle persone che mi stanno facendo le stesse domande attraverso Facebook, chiedo al professor Boncinelli di cercare intanto la pagina del 3 marzo, che mi chiede Anna, che vorrebbe sapere da Facebook. Io ho già trovato il 3 marzo, è andata bene, perché è una lirica lunga di Alceo, è quella che inizia, professor Boncinelli, qua da me lasciata l'isola di Pelopo. Bellissima. Di cosa parla? Il suo commento è che dopo aver riconosciuto l'umana fragilità, le difficoltà della vita, si prova l'impulso di chiedere quell'aiuto all'altro, che solo questo potrà permettere di compiere grandi imprese. Cosa vuol dire Alceo con questa poesia che dedichiamo a Anna? Alceo, che è un poeta contemporaneo e conoscente di Saffo, ma con una forza molto più variata. Lui parla d'amore, ma parla anche di impegno civile, parla anche di guerra, parla anche di mito, e qui racconta il mito dei due gemelli celesti, Castore e Polluce, e lui li invoca in un momento, tanto per cambiare, di crisi politica in realtà, ma sta parlando della crisi di una nave che sta attraversando il mare, e dice di venire a illuminare la strada, perché c'era la leggenda, peraltro ripresa tante volte nella storia, dei fuochi fatui che corrono per le navi e illuminano talvolta nella notte più nera il cammino. E quindi Alceo, in questa poesia misto tra mito e realtà, fa questa invocazione ai due gemelli celesti. E portate luce nella tetra notte all'oscuro naviglio. Ecco, anche questa è una di quelle massime che servirebbero a ridare l'idea che comunque l'umanità ha sempre attraversato gli stessi problemi, le stesse angosce. Oggi abbiamo l'illusione, e parlo con la professoressa Cantarella, che esistono i problemi specifici della nostra epoca, ma leggendo i lirici greci, attribuendoli poi al nostro quotidiano, ci si rende conto che in realtà non è così. Non è così, no, non è così. Ci sono dei problemi che continuano a riproporsi, che si presentano nei vari momenti in modo diverso, ma che naturalmente hanno qualche cosa che in comune, per cui i lirici greci o qualunque testo classico, in ogni caso, è sempre molto importante per capire quello che sta succedendo oggi, che ci sta succedendo oggi. Raffaella, buongiorno. Buongiorno, sono felice di parlare con lei, sono felice di parlare di poesia e spero di poter comprare il libro. Se non costa tantissimo. Ma aspetta, glielo dico quanto costa, ma penso che costa solo 24 euro, non è che sia... Senz'altro, allora, mi faccio un regalo per Natale. Ecco, dunque, andiamo al giorno. Lei... Il 3 agosto. Ecco, il 3 agosto. Anche qua è qualcosa che, naturalmente, Boncinelli ha attribuito a agosto un certo tipo di poesia, perché c'è un certo clima, e poi lo immaginiamo anche un clima legato ad alcune stagioni che corrispondevano a stagioni anche dei comportamenti umani. Lei com'è come temperamento, Raffaella? Credo di avere un temperamento che non mi permette di avere pace, ma comunque stamattina ero molto avvilita, per esempio ho ascoltato lei, adesso sono felicissima e mi sto divertendo da matti e sono convinta di quello che diceva la signora prima, ossia che la poesia... Vabbè, non interpretiamo, che non importa, la poesia no. Conviene ascoltarla piuttosto che... Scusa, sono una chiacchierona, le chiedo scusa. Allora, professor Boncinelli, il 3 agosto cosa propiniamo alla signora? Sono due righe, come al solito, incisive, sui dadi con i quali si trastulla amore, si alternano follia e disordine, cioè amore gioca con i dadi, ma non c'è niente di buono, naturalmente da un certo punto di vista, in realtà senza follia, senza amore, senza un certo sconvolgimento dei sensi, la vita non avrebbe proprio senso, quindi è la trasfigurazione dell'amore in un gioco di dadi del fanciulletto Eros. Raffaella, lei è per lo sconvolgimento dei sensi? Io sono d'accordo con tutto quello che ha detto il professore, assolutamente vero. Beh, l'ha detto Anacreonte. Beh, vabbè, comunque me l'ha spiegato lui e quindi per me è stato forse più facile anche arrivare. Ma se la sente nei sensi questa poesia sullo sconvolgimento dei sensi? Sono convinta che la poesia può sconvolgere, io sono una musicista, quindi come la musica anche la poesia può sconvolgere assolutamente. Va bene, le auguro che il prossimo colpo dei dadi le dia questa convinzione. Uno dei sei si sta facendo bello del mio scudo, arma perfetta che ho abbandonato mio malgrado in un cespuglio. Ho salvato me stesso. Che mi importa dello scudo? Che vada in malora. Ne comprerò assai presto un altro, e non peggiore. Ma sì che ci importa dello scudo di Archiloco. Professor Boncinelli, c'è Silvia, che dice che di essere stata anche sua allieva, che vuole sapere il 30 dicembre. Il 30 dicembre, Alcmane, lei scrive, e quegli tirò le sorti ed assegnò i destini. Cosa significa? Di un lungo racconto in cui c'era la soluzione di un dramma e si immagina, come spesso immaginano i greci, che in realtà i drammi si decidono a sorte e quindi in questo caso c'è qualcuno che tira le sorti, assegna i destini, però poi sono sempre gli uomini che sanno farne buono o cattivo uso del destino che il fatto gli riserva. Per questo i latini poi dicevano astere inclinant non determinant. Certo, però l'uomo tende sempre a dare la colpa a qualcuno e a qualcosa. Beh, è più facile questo, se no non saremmo uomini, saremmo dei. Melog 2.0. Riprendo velocemente, visto che le richieste sono tantissime, non voglio più fare commenti, ma dare soltanto oracoli se possibile, da il testo I miei lirici greci, 365 giorni di poesia di Edoardo Boncinelli, che ha attribuito ad ogni giorno dell'anno una poesia, una lirica greca. Riccardo, buongiorno. Sì, buongiorno. La sua storia, velocemente, poi le diamo l'attribuzione. Ecco, velocemente, io entro in seminario con i miei compagni il 17 settembre 2006 nel seminario di Venegono Inferiore di Milano, ecco, per diventare prete diocesano, e quindi è un atto importante, appena ho sentito... Poi c'è diventato prete? No, sono in terza teologia. Adesso siamo qui in classe all'intervallo e... Quindi vuol sapere come va a finire? Eh? Vuol sapere come va a finire? Mi dica. No, dico, lei vuole sapere come va a finire? Che cosa? Non lo so, tutto, la sua vita, la sua vocazione, il suo diventare prete. Ma comunque noi l'accontentiamo. Professor Boncinelli, 17 settembre, Simonide, cosa dice? È un epitaffio. Simonide è un grande poeta, anche, diciamo, professionalmente poeta, e ha scritto molti epitaffi. In questo, che è quello per i caduti nella gloriosissima battaglia di Platea, dice appunto che se morire da valorosi è il massimo dell'onore, allora noi che siamo morti, più di tutti favorì la fortuna. Ci siamo battuti per assicurare alla Grecia la libertà e ora qui giacciamo carichi di eterna gloria. Cioè qualcuno che si è sacrificato ma che è rimasto eterno nel pensiero, nel ricordo, nella celebrazione degli uomini. Cosa ne dice Riccardo? Ma voi state ascoltando in seminario, in classe, Melog? Beh, lo ascoltavo in camera perché non avevamo lezione prima, poi scendendo ho voluto condividere con i miei compagni. Ecco, cosa ne dice rispetto alla vocazione, la sorta di perinda cadaver, nel senso che se i valorosi sono coloro che muoiono, noi che siamo morti siamo i più valorosi di tutti. Si lega in qualche maniera con il senso di una vocazione religiosa? Non completamente, ma in parte sì, ecco. Beh, morire non è che dà gusto a nessuno. È così? Sì, un pochettino, va bene. Vabbè, in bocca al lupo, auguri, non so come si dice, felice lezione e buona giornata, e ascoltate Melog anche nel seminario, perché penso che a noi faccia bene senz'altro. Eva Cantarella, non posso fare a meno di leggerle il messaggio che ci scrive Marco su Facebook, che onestamente, alla luce della moderna composizione della società, non fa una piega. Dice Ferrini: caro Nicoletti, dica ai suoi professori che, da pragmatico ex studente dell'Istituto Tecnico Industriale, credo che a prescindere da qualsivoglia condizionamento culturale, consuetudinario, storico, a qualunque latitudine d'epoca, un ragazzino di 12 anni non può essere felice di essere inchiappettato da un vecchio bavoso educatore maestro. Cosa risponde, professoressa? Rispondo con una citazione, l'incipit di un bellissimo libro che è The Go-Between di Hartley, che, come dice, in italiano traduco, allora, il passato è un paese straniero, si fanno le cose diversamente lì, e questo è un grande insegnamento. I classici e la storia in genere sono importanti proprio perché ci mettono di fronte ad altri mondi dove ci sono altri valori, altri costumi. E quindi ci insegnano anche a capire che non tutto è stato sempre come siamo abituati a vederlo, e quindi quello che oggi può sembrare una cosa, come dire, diciamo, per essere eufemistici, sgradevole, non lo era, ma vede che lo è oggettivamente. No, non vorrei, mi scuso professoressa, appoggiare la lirica greca come letteratura di supporto a giustificare la violenza sui minori. Quello che volevo dire è questo, è che la letteratura greca non ha nulla a che vedere, perché la pederastia greca non aveva nulla a che vedere con quello che pensa questo, non so se è ragazzo o signore che scrive. Sì, un signore. Beh, assolutamente nulla a che vedere, perché era un rapporto in primo luogo educativo, affettivo, era un rapporto consenziente, non era, il ragazzo non era assolutamente in nessun modo, non solo non era forzato, ma non era neppure psicologicamente coartato, perché, come avevo cercato di accennare prima, ma sa, sono cose difficili e il tempo è poco, i ragazzi a 13 anni, perché prima 13-14 anni di allora erano molto diversi, pensi all'età matrimoniale, allora ci si sposava a 12 anni. Si moriva anche molto prima. Io vorrei invece adesso servire Diana, che dice che lei è nata il 12 ottobre e vorrebbe uscire dalla iattura di essere sempre appiccicata addosso alla scoperta dell'America. 12 ottobre, professor Boncinelli, non so se Diana può sentirsi più fortunata, per il frammento di Archiloco che le spetta il 12 ottobre, che dice: molte anguille cieche ti pappasti. Cosa significa? Siamo un po' sul licenzioso in questo caso. Se l'ha chiesto Diana, molte anguille cieche ti pappasti. Sono le anguille senza occhi, si capisce di cosa si tratta. Siamo un po' lontani dalla scoperta dell'America, però è un altro aspetto dell'anima e della lirica greca. Non se le risparmiavano, non se le mandavano a dire. C'è tutta una poesia appunto giambica in cui c'è una certa violenza verbale e c'è un grande sarcasmo. Quindi usavano e maneggiavano con facilità anche il doppio senso, la frase licenziosa. Assolutamente, Ipponate, di cui purtroppo c'è rimasto poco, è un grande maestro di questo, rovescia tutti i miti classici, chiama tutti in maniera insolente e fa dei ritrattini eccezionali come quello del figlio della cica che prima se la passava male male e veniva spesso frustrato perché rubava e che ora gira su un calesse con un ombrellino come le signore della buona società. È un pezzo inconfondibile e non facilmente dimenticabile. Olga, buongiorno. Buongiorno. Lei cosa ha scoperto l'11 luglio? L'11 luglio vuole sapere lei? 11 luglio, sì. Mi hanno detto che ero incinta. E quindi vuol sapere l'11 luglio cosa dicono i lirici greci per quel giorno. Ecco, l'ho trovato. Beh, infatti ci sta proprio bene, guardi. Professor Boncinelli, l'11 luglio leggo Saffo, spasimo e smanio. Sono solo due verbi, però mi sembrano eccezionali. Cioè, sono due verbi, naturalmente bisognerebbe vedere il testo greco. Esattamente l'anima di chi è in trepida attesa e nello stesso tempo ha paura di non essere corrisposto. Quindi spasimo e smanio in attesa che tu sciolga le riserve e venga da me. Però guardi, nella fatale e a volte anche improvvisa attribuzione a un evento della vita, in fondo la smania e lo spasimo sono due caratteristiche tipiche della gravidanza, vero Olga? Purtroppo sono una caratteristica tipica di tutta la mia vita. Lei ha spasimato e smaniato per tutta la vita? Sì. E ma cosa si aspetta? Quel giorno è stato molto particolare. Ecco, perché spasimo e smania hanno così segnato la sua vita e perché, secondo lei, Saffo improvvisamente è arrivata a suggellare quella che è una costante della sua vita? Ma per degli eventi dell'infanzia è un'indole mia propria in cui prendo la vita in modo molto emotivo, mi innamoro di tutto e insomma non è un approccio semplice. Professoressa Cantarella, quanto c'è di antico e di classico in questo nostro sconsiderato attribuire quasi che fossero, che ne so, dei segni del destino, delle liriche scritte in altri tempi, in altre occasioni, per altre ispirazioni, a fatti concreti della vita dei nostri ascoltatori? Io credo che ci sia qualcosa, anche ci sia qualche cosa di antico, di classico. La credenza che le cose, qualche cosa di magico, qualche cosa di che viene dal di fuori, da forze strane, che a tutto si attribuisce tutto, il bene e il male, a qualcosa che sta al di fuori di noi, e quindi mi sembra che rientri benissimo. Professor Boncinelli, lei aveva mai pensato, o lei mai fatto nel suo esercizio quotidiano, lo stesso gioco stiamo facendo adesso noi? Una mattina che deve prendere una decisione, una data che le ricorda un impegno, sfogliare il suo libro o la sua memoria, dire: vediamo questo giorno cosa mi suggeriscono i lirici. Questo non l'ho fatto prima che appunto le collaboratrici della casa editrice che si sono inventate questo giochettino, perché effettivamente l'idea di mettere una poesia al giorno era un'idea che girava da tempo, no? Perché sono esattamente 365, anche 366, ma loro si sono inventati questo giochettino al quale io così austeramente ho prestato all'inizio un po' poca attenzione, ma vedo che può essere molto interessante. D'altra parte sono tutte belle, tutte cariche di significato, quindi a tutte si può trovare. Ecco, mi scrive un'ascoltatrice su Facebook e mi chiede di una data molto particolare, il 29 febbraio. Il 29 febbraio è un giorno che c'è una volta ogni tanto. E lei ha attribuito a questo giorno una lirica particolare di Prassilla. Ho pensato di fare addirittura due, e molto strane, perché parlano di cibo. In una si parla dei cetrioli, delle pere, dei pomi, e in un'altra... E come per le anguille, vale la stessa cosa delle anguille o in altra attribuzione? No, questa è una... E niente meno Adone, che ferito a morte dice: mi dispiace morire, mi ricorderò il sole, e che va benissimo, mi ricorderò le stelle splendenti e il volto della luna, e che va benissimo. E poi quando è la stagione, i cetrioli, le pere e i pomi. Quindi c'è un passaggio brusco da una contemplazione lirica a un'elencazione di prelibate, insieme, un pochino più terrene. E poi sempre il 29 settembre c'è una specie di calendario gastronomico di un giambografo oscuro di molto tempo dopo, che dice: in primavera mangiati questo, d'estate mangiati questo, d'autunno mangiati questo. Purtroppo non è facilissimo da rendere, perché il nome di alcuni pesci, per esempio, non si capisce bene che cosa significhino oggi, però è gustoso, ecco, ho voluto riservare al 29 febbraio un qualcosa di gustoso. Quindi ecco consolata anche l'ascoltatrice, che in realtà può festeggiare soltanto una volta ogni 4 anni il suo compleanno. Grazie Edoardo Boncinelli, grazie Eva Cantarella. Ricordo, I miei lirici greci, 365 giorni di poesie, potrebbe essere un'idea per dare un senso ad ogni giorno quando sembra che sfugga ogni senso alla nostra giornata. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.